dunque dovrebbero festeggiare anche loro i 150 anni. Guardi, adesso, al di là di tutto questo, fa parte della nostra storia, sono dei festeggiamenti per tutti gli italiani, per ricordare da dove proveniamo e credo che la storia non vada dimenticata. Se oggi l'Italia può avere una I maiuscola e che oggi diciamo siamo tutti fieri di ascoltare l'inno di Mameli e ci ritroviamo sotto il nostro tricolore, e grazie a questo. Però lei lo sa, caro Principe, che il tricolore, qui ci sono leghisti che ci farebbero qualcos'altro, ci si pulirebbero, insomma lei sa cosa, insomma. Io non voglio entrare in polemica con i leghisti. No, ma lei cosa vuole in polemica con loro? Cosa vuole dire a Bossi quando dice col tricolore lo disse una volta, no? Questo credo che avrò anche già replicato su questo, ma no, io vorrei soprattutto dire che ci ripensi per la forza del nostro Stato. Noi dobbiamo sapere da dove veniamo per capire dove siamo e dove andremo. Dunque ci ripensi Bossi e vada alle feste dei 150 anni a prescindere da Napolitano, non è che solo perché è amico di Napolitano deve andare perché è giusto che vada, va bene? È giusto che vada, come giusto che ogni italiano senta suo, è una festa di tutti gli italiani, il 150° anniversario. Ma la Padania secondo lei esiste? Perché loro si sentono più padani. Esiste secondo lei la Padania? Secondo me non esiste, secondo lei esiste la Padania? Ma guardi, non mi faccia il diplomatico, va bene che lei è principe, dunque è diplomatico per natura, però la Padania esiste o no? Mi dica di no, principe. Oggi come oggi no. No, come oggi. La Padania è un'entità che non esiste, diciamo la verità. Questo è vero. Vabbè, allora possiamo dire, Emanuele Filiberto di Savoia dice a Bossi la Padania non esiste. Vabbè, è così, no? No, Emanuele Filiberto di Savoia dice a Bossi, per favore, caro Bossi, caro Calderoli e cari amici della Lega, ripensate perché questa è una festa di tutti noi. Poi possiamo... Poi la Padania non esiste. E poi aggiunge due punti, la Padania non esiste. È così, lei ha detto questo, ma giusto. Per carità, ma mica c'è niente di male. Alcune cose bisogna dirle chiare e forti, o no? Questo è vero. Senta, ma le